Roberto non dirà nulla, io dirò poco, molto diranno Marco e Mario. Ringrazio Alberto che per l'ennesima volta ospita un'iniziativa che ha a che fare con le persone, che Grande gioia sempre. desta sempre dei dubbi nei suoi confronti. Per chi non conosce il motivo di questa serata, o meglio non lo conosce del tutto, io sono Carlo Sperduti, sono l'editore di The Click, che è la casa editrice che ha pubblicato il libro La natura del continuo di Mario Cospicelli, che è qui alla mia destra, che sentiamo stasera insieme a Marco Giovenale, che ringrazio. E The Click si occupa da quest'anno, da febbraio, quando è uscito il primo libro, un'antologia che si intitola L'ordine istituito, di letterature, di scritture altre, come piace chiamarne a me, e cioè di quelle scritture che si muovono negli ambiti dello sperimentalismo, della ricerca e di tutto ciò che il cosiddetto mainstream non si sognerebbe mai di prendere in considerazione, e che invece The Click e altre case editrici, per fortuna, prendono in considerazione e portano avanti tra le difficoltà che potrete immaginare di mercato, di distribuzione, di promozione, eccetera, eccetera. Già che esistono luoghi come questo, no? Ci fa ben sperare in un presente e anche in un futuro almeno prossimo, poi vedremo. Dunque, il libro, io ho conosciuto Mario Cospicelli tramite i suoi libri e poi di persona, in particolare tramite un libro che è uscito nel 2018 con Tigrizioni, che si intitola Qualche parte del cane, che, come dice il titolo, è Qualche parte del cane. E da subito ho capito che Mario Cospicelli non stava bene. E a parte questa sua particolarità psichica, però è anche ho subito capito che è un autore che mi interessa particolarmente, perché è uno di quegli autori che mi ha dato un'impressione di spostamento di prospettiva. Quindi mi ha messo di fronte a una modalità di utilizzo del testo letterario che, punto primo, non avevo mai preso in considerazione, punto secondo, mi sembra funzionare straordinariamente. E dunque ho continuato a leggere i suoi libri, poi ho avuto la fortuna di conoscerlo grazie a Sistema Ricerca qualche tempo fa a Milano, e ho avuto anche la sfacciataggine di proporgli di fare un libro. Lui me ne ha proposti 9, più o meno, se non ricordo male, e ho scelto di iniziare, perché poi magari ce ne saranno degli altri, vedremo, con il libro da che trovo particolarmente, si può dire, geniale al giorno d'oggi, diciamo, su Cospicelli lo diciamo. Si è riferito a me? Assolutamente, geniale. Dette queste quattro cazzate, lascio la parola a Marco e a Mario, che ringrazio. Grazie a voi. Grazie a te, Carlo. Ah, devo leggere io subito, così. No. Allora, la prima la legge C'è un Marco, inganno dietro. perché Allora, vedo che Marco ci tiene molto, ma io a caso ho promesso che non l'avrei letto. allora, io ho mandato a questi due signori che hanno appena parlato, precedentemente, una scaletta su cui loro ovviamente non hanno concordato, ma in realtà già ha ceduto Carlo prendendo la parola. Stavo vedendo se cedeva anche lui, ma invece all'ultimo istante ha tirato le redini. Allora, però prima di leggere a questo punto partiamo da una parte del peritesto, cioè dalla bandella, che dice questa cosa strana. Allora, questo libro è un de rerum natura giocosissimo che sposta sempre di lato il caosmos che descrive, disimpegnandosi dalla riproduzione di paesaggi, bestie, regole, mappe, tassonomie, e semmai disorientando con gusto quella che pensavamo essere una visione stabile delle cose, talvolta disturbando le immagini naturali come farebbe un'intelligenza artificiale. Con un titolo quasi seicentesco, Il libro della natura e del continuo, mette in campo alcune ossessioni testuali di Mario Cospicelli, una su tutte quella per i fenomeni naturali e gli animali e il loro mondo, meticolosamente deantropomorfizzato. Oppure il ricorso a un tagliente registro ironico, se non addirittura di scherzo scherno, diretto tanto al contesto degli umani quanto ai loro scambi linguistici. E qui ci sono un paio di citazioni, anzi una citazione sola, ma un po' lunga. E Poi si odono feste di mercato, con gioia di genti, nel crollo dei prezzi di mercato, con una qualche distruzione delle genti, per lunga la strada che è lucente, che bello che è il linguaggio delle genti, con una qualche distruzione del linguaggio. Questo gioco costante sulla distruzione e ricostituzione del linguaggio ci porta subito a confrontarci appunto con ciò di cui stiamo parlando. Quindi io avevo intenzione di far leggere a Mario, che ha rifiutato, una parte dell'incipit proprio del libro. Ma sta andando benissimo, no? Così. Non avevo detto. Il primo testo del libro si intitola Libro. Il rosso cocomero, che bello che è il linguaggio. Pensate se fosse il cremisi cocomero, com'è bello, è bellissimo il linguaggio. Pensate se fosse il mirabile linguaggio perlucente rosso, cremisi, con lancio del cocomero dal balcone, con una qualche distruzione dell'autore, la perlunga strada. E quando tutto sta crollando, ciò che resta rinuncia e non esiste. Nel vicendevole massacro del cremisi sul rosso perlucente, con lancio del cocomero dal balcone rorido, con parziale distruzione del vicendevole, con parziale distruzione del cocomero nel cremisi lucente, che vaga solcando la foresta nell'attuare le sue visioni di bonifica, usando la terra che era sua, con lancio di cocomeri dagli alti rami perlucenti del bel rorido cremisi e dai balconi con parziale distruzione della selva, e ripetendo rilucente il cremisi, rinovella, esci e coltiva i campi. Quando piove a tutta distesa, non misurare l'estensione dei campi con vasta seminagione di cocomeri in attesa del cremisi smagliante, della pioggia perlucente e già posata. E poi si odono feste di mercato. E con gioia di genti, nel crollo dei prezzi di mercato, con una qualche distruzione delle genti, per lunga la strada che è lucente, che bello che è il linguaggio delle genti, con una qualche distruzione del linguaggio. O ti odo, genti, nel lungo perlucire del linguaggio, con una qualche distruzione dell'autore. Un altro tema, i cocomeri sopra i campi e altre storie di sepolture negate. Un altro tema sui campi, trecce di bulbi bianchi a distesa in luogo dei solchi. Bravo. Grazie. Allora, io ho letto soltanto questa prima. Non so se tu vuoi leggere la dai, seconda. Diciamo, leggo, salto la seconda, leggo questa. Va bene, d'accordo. No, che si intitola Libro, puressa. Uccidere un cervo nella caccia, tirare le tendine sulla caccia, fare una nuova caccia in cui il cervo non verrà ucciso, tenere valida l'abitudine alla caccia, tenere valida l'abitudine di tirare le tendine sul sole della caccia, seppellire continuamente lo stesso cervo con le corna che sporgono dal suolo, tenere valida l'abitudine degli alberi a sporgere dal suolo, tirare le tendine sugli alberi e sul sole, tenere valida l'abitudine del sole ad attraversare le tendine nella caccia, istruire gli alberi alla caccia, seppellire la parte degli alberi inadatta alla caccia non è adatta, non istruire il sole. Un altro mondo segue. Un mondo. Ho notato che la carta che viene bagnata si assottiglia e forse riesce a leggere il testo di entrambe le facce del foglio, o forse anche ad ascoltare ciò che viene detto da quel che resta schiacciato tra le due facce del foglio e di cui l'acqua e il sangue, che è trasparente alla foresta di pini, alla foresta di abeti, vi corrono cervi sotto il giro del sole. Proseguo. Libro dei boschi e delle foreste. Non dare ascolto all'autore che vaga nella foresta. Ha già preparato un'arcaica nicchia, occorre tornare nella foresta, sedersi al caffè, che è folto di nomi, estrarre la parola dal fondo della foresta, esempio, fronda, nelle banche, nelle campagne, verbose, progettanti, sparire dalla superficie ricoperta di foresta, nemici dell'intera natura, ci opponiamo a crearla, distruggiamola internamente a partire dal corpo, che vaga nella foresta, ma queste voci tremano, non hanno la purezza. Assorto soltanto nel bene futuro, con una sobria soppressione di popolo, di vasti spazi vuoti da lasciare alla foresta, nella sua netta scansione di vuoti e gradimento di fronde e di foresta, esempio, frasche, fronde, singhiozzando come astri erottati da una specola buia, o al contrario dall'ombra del folto e nella vita che circola di chi vaga nella foresta vi sono fronde. No, non era per quello. Si è fermato. No, era perché cercavo di capire cosa dovevo fare. Quando, no, leggi a piacere, come si dice. A piacere, allora non leggo. Petizione per la diffusione dei boschi anche nelle foreste. Petizione per la diffusione dei pini anche negli abeti dei boschi. Petizione per la diffusione degli aghi anche negli aghi traversi incrociati. Petizione per la diffusione generale, per così dire, attraverso le crepe. Petizione per la sostituzione diffusa di aghi con crepe e crepe con aghi. La serenità del cielo a guance paffute di nuvole bianche. Si fa tutto in modo da riuscire a intravedere un profilo, oppure da tuffarcisi dentro. Petizione per la sostituzione diffusa delle fronde di pini e abeti con nuvole, degli abeti parimenti con nuvole. Petizione successiva per la sostituzione diffusa delle nuvole con grandi masse d'acqua trasparenti agli aghi dei pini e degli abeti, leggere come aghi di abeti e di pini, sospesi, cioè nuvole. Oppure promuovere un rapporto di complementarietà delicata e tortuosa. Sostituzione diffusa di nuvole con nuvole a opera del vento. Ho visto una mosca trafitta da un ago di pino, la stessa trafitta da un ago di abete. Per la crocifissione della mosca si utilizza un asterisco. Asterisco. Per la trasformazione di un cervo in mosche occorre prima un cervo e poi mosche, la morte del cervo e disfarsi del cervo, o che il cervo si trasformi in mosche, gran volatile cosa. Le mosche costituiscono una disarticolazione dell'aria contro la quale non è possibile operare contromisure. Migrano poi verso l'alto a occupare il luogo degli aghi sui pini spogli nel vento, oppure vedi mosche trafitte da aghi di pino in un rapporto di celata avversità che non sono belle. Oppure instaurare un rapporto di indissolubile complicità. O in un rapporto di rivalità mortale, perché ha la morte come scopo della contesa, che ha la sostituzione come scopo della contesa, o che ha la contesa come sostituzione della morte in cambio. Se tutte le mosche si mettessero a soffiare, se smettessero, i morti sprofonderebbero giù, mentre il vento arzigogola le nuvole, il cui colore base è quel bel bianco. Vi è due corpi un solo gesto, vi è due gesti un solo corpo, vi è una grande qualità dell'aria. Petizione per la diffusione di aria nell'aria e per il gioco delle girandole colorate. Petizione per la rimessa in luogo dei pini nei boschi e degli abeti nelle foreste, dei boschi nei loro boschi, delle foreste nelle loro foreste esposte ai soffi del cielo, vennero e presero posto. Un altro mondo, una bacca piccola come una buca che può contenere una bacca piccola come una bacca con rigore estremo che serve. Un tema, il conflitto tutto taciuto tra la parte vuota e la parte che si apre della porta. Tavola a cui si accoglie l'ospite, vivacizzato da un gran vento. Vuoi dire qualche cosa? Diciamo due cosine. Allora, intanto, come avete sentito, insomma, si spiega da sé l'idea del trattato seicentesco di cui si accenna nella bandella. Cioè, effettivamente ci troviamo di fronte a una sorta di, come dire, di descrizione del mondo, di un lapidario, un erbario e tutte queste cose insieme alla negazione della forma erbario, della forma lapidario e della descrivibilità del mondo, in qualche maniera. Quindi è esattamente nel titolo e nelle intenzioni burlesche quale scienza e raggruppamento delle categorie del mondo in una sorta appunto di enciclopedia, che però si dimostra essa stessa all'interno e dall'interno esplosa non soltanto dal punto di vista nomenclativo, tassonomico, ma anche dal punto di vista linguistico, e esplosa soprattutto con questo girare vorticoso delle variazioni, delle sostituzioni dei nomi di un soggetto che diventa oggetto e che poi improvvisamente cambia funzione nella frase successiva, come se appunto questo mondo fosse così sfuggente da arrivare finalmente a una descrizione di se stessa in termini proprio di fuga costante. E, il libro è diviso in sezioni, di cui vi dico i titoli. Libro profetico del possibile, Libro minore del linguaggio, che è un titolo per un libro fantasma in realtà, perché poi corrisponde a tutto il libro, perché in verità questa sezione non c'è, Libro dei boschi e delle foreste, che è la sezione più corposa, 2, che è un discorso ironicissimo e molto divertente su quanto di più impercettibile e inafferrabile c'è nel mondo meno naturale, però incastrato con quello naturale che è umano, ed è appunto il discorso sui poteri forti e deboli. Libro profetico del possibile della chiusura, che in effetti chiude il libro, però c'è anche un altro titolo, Libro degli spiriti, volume a parte, per cui c'è un volume a parte oltre questa enciclopedia che verrà rilasciato chissà come, quando e dove. E sì. Ci allora, tengo molto, eh. Ci tengo molto al Libro degli spiriti, sì. Al volume a parte, però deve essere a parte, ok. Speriamo non sia troppo spiritico, che si concretizzi in qualche modo. E quindi il gioco è, con l'immagine dell'enciclopedia, con l'uso, la funzione, la struttura dell'enciclopedia, anche però chiaramente col mondo classico, è inutile citare Lucrezio, e per tanti aspetti, soprattutto nel gioco con l'iterazione, con la quasi sacralità del linguaggio, con una sorta di scherzo anche sulla serietà-seriosità del linguaggio biblico. Allora, già in incipit ci rendiamo conto che in qualche maniera ci troviamo di fronte a tutto questo. Il primo testo, quello che ho letto io prima che Mario leggesse poi quelli successivi, è abbastanza esplicito in tutto questo, no? Comincia il primo verso, comincia con il rosso cocomero, con l'aggettivo che precede il nome, in maniera piuttosto così, insomma, buffa. E questo sarà uno dei meccanismi che Mario userà spessissimo nel libro. Come a dire, sto parlando di qualcosa, sto cercando in qualche modo di definire, di trafiggere con lo spillone sulla tavola appunto nomenclativa delle cose un oggetto, però lo faccio con una forma desueta linguistica, che è appunto la precedenza dell'aggettivo rispetto al sostantivo. Così come in altri casi farà precedere il verbo al soggetto, con una forma in qualche maniera che appunto ricorda proprio i trattati antichi. Subito dopo, il rosso cocomero, che bello che è il linguaggio. Ecco, immediatamente ci troviamo di fronte a una sorta di decostruzione, ma divertentissima, come una fionda che colpisce un enorme castello di carte, che praticamente fa sgretolare un secolo intero di riflessione di filosofia del linguaggio, da Saussure a Wittgenstein. Che bello che è il linguaggio, dopo aver parlato appunto di un cocomero che poi non si sa perché viene lanciato dal balcone. Quindi chiaramente non abbiamo una descrizione, sono cose che capitano del resto, d'altro canto bisogna parlarne, qualcuno ne dovrà pur parlare. E se non succede? Certo, e bisogna farlo succedere, quindi. E quindi, come un po' già si nota da questo insieme di annotazioni che abbiamo fatto, sono un po' in gioco vari meccanismi che fanno già la natura di quello che Carlo Sperduti citava prima, cioè un po' il contesto delle scritture di ricerca, metterei le virgolette per dire recenti, perché si parla di scritture di ricerca in una certa accezione, che è esemplata in maniera eccelsa ed egregia dal libro di Mario da una ventina d'anni, forse anche di più, una 30 per la Francia. E quali sono alcune altre caratteristiche di queste scritture? Allora, mi perdonerà chi ha sentito questo elenco altre volte, che è qui presente, ma per esempio una interessantissima, e nel libro di Mario assolutamente presente ovunque, posizione di bilico, di equilibrio, di non decidibilità, se la espressione a cui ci troviamo di fronte sia ironica oppure no. Cioè c'è una ironia forte in tutto il libro, no? Uno scherzo forte che è costante su tutte, sulla spiegazione di cos'è un animale, cosa fa un animale, eccetera, eccetera. Però queste spiegazioni sono sempre decostruite dalla spiegazione che segue, per cui un cervo diventa un cane si ritrasforma in cervo, eccetera, eccetera. E non sappiamo quindi, nel momento in cui leggiamo la singola frase, se stiamo all'interno di un discorso che poi deraglierà su se stesso e si negherà, e quindi ci troviamo di fronte a un meccanismo ironico, qualcuno che sta dicendo una cosa ma in realtà intende il contrario, oppure se no veramente ci sta descrivendo come funziona il mondo. Ovviamente sappiamo che c'è un'ironia di base, però ci sono dei punti e dei momenti poi in particolare nel libro in cui effettivamente il flusso sembrerebbe quasi lirico, assertivo, diretto, frontale, senza nessuno scherzo, senza nessun gioco. E poi in realtà, leggendo bene, ci possiamo rendere conto che proprio il vocabolario così, così semplice, così limpido, dà adito in realtà a una sottile inquietudine, percezione di ironia, cioè del contrario di quello che effettivamente il testo nella sua lettera ci dice. E, più di una volta ho fatto riferimento a questo fatto che di questo meccanismo, cioè di questa ironia, che non si sa se è veramente ironia, cioè se sta dicendo il contrario di quello che il testo ci dice oppure no, e, di questo hanno parlato per esempio Luigi Magno per una scrittrice francese che si chiama Nathalie Cantin, e quindi per un testo in particolare che si chiama Remarque, Osservazioni, in cui si descrive in maniera da capo, quasi enciclopedica, quasi una anatomia delle azioni quotidiane, del cucinare, del guidare la macchina, eccetera, in cui appunto non si sa esattamente se quelle notazioni sono ironiche, cioè se si sta giocando con quelle azioni normali e quotidiane che noi compiamo, oppure se invece si tratta veramente di una sorta di descrizione asettica. Tant'è vero che poi il libro fu pubblicato da una casa editrice che normalmente pubblica poesia assolutamente seria, seriosa e lirica. Questo è il primo esempio. L'altro esempio è quando, probabilmente senza aver letto le osservazioni, senza aver ascoltato, perché in realtà era una presentazione di Luigi Magno, francesista Luigi Magno, su Osservazioni di Nathalie Cantin, ha fatto Vincenzo Stuni presentando una volta cinque testi, tra cui Gli alberi più uno di Michele Zaffarano, che è un libro che sembra descrivere, come in questo caso qui, delle situazioni naturali, cioè che cos'è un fiore, che cos'è un albero, e lo fa in una maniera che lascia assolutamente in una forma di indecidibilità la nostra percezione del testo, se ci troviamo di fronte appunto a una sorta di enciclopedia oppure no. Poi abbiamo un altro elemento, l'elemento dello, l'abbiamo detto, è anche scritto nella bandella, di scherzo, ma io direi anche proprio scherno, burla, sulle forme poetiche più viete. Abbiamo già fatto l'esempio dell'inversione aggettivo-sostantivo, oppure di espressione un po', non so, più che consunte, quando tutto sta crollando. Ecco, questa è una cosa, adesso la cito interamente, sono questi due versi che dicono: quando tutto sta crollando, ciò che resta rinuncia e non esiste. Cioè, e qui si capovolge un po', no, il discorso di Heidegger su Hölderlin, insomma, no? Ciò che resta lo fondano i poeti, no, ciò che resta rinuncia, non esiste, è finita lì. E questo è una sorta di linea tratteggiata che attraversa un po' tutto il libro, anche qui, cioè il riferimento magari a appunto luoghi alti della cultura poetica occidentale per poi in realtà capovolgerli. C'è anche una sorta di gioco di Mario Corticelli sul tratto invece molto anche greve e violento, no? Dice una certa parte di scrittura un po' espressionista, un po' forte della tradizione, non soltanto italiana, e quando per esempio dice: nel vicendevole massacro del cremisi sul rosso perlucente con lancio del cocomero dal balcone, oppure quando parla di una qualche distruzione delle genti, l'abbiamo letti e accennati più volte, sono appunto momenti effettivamente più ironici, più giocosi che non appunto violenti. Insomma, sostanzialmente è una scrittura letteralista, in cui la lettera vale molto, però il problema che innesta Corticelli nel nostro sguardo è capire quanto di quella letteralità effettivamente corrisponde a un'ironia, quindi a un rovesciamento, oppure quanto veramente è una descrizione del mondo. Da capo soltanto qualche esempio del lessico che evidenzia quanto di buffo abbiamo noi tutti quanti parlando, sia nel linguaggio a volte un po' burocratico, sia scrivendo nella altezza della retorica, no? Quando per esempio dice «vasta seminagione», oppure «si odono», gioia di genti, perlucente che poi genera un perlunga, oppure un vocativo che inizia oh ti odo. Voglio dire, tutto questo è l'arrivo è nella prima poesia, l'arrivo di tutta questa serie di meccanismi che già sono presenti già nella prima poesia, oh ti odo genti, nel lungo perlucire del linguaggio con una qualche distruzione dell'autore. Quindi l'arrivo è a questo, è l'approdo alla distruzione dell'autore, anche se questo è un libro fatto tutto di minuscole, però si capisce che questo autore distrutto è l'autore con la A maiuscola, l'autore che pretende veramente di fare una tassonomia del mondo, che pretende veramente di dare i parametri della nostra lettura della realtà. Ed ecco come a me sembra effettivamente del tutto evidente che quando ci troviamo di fronte a testi come questi il sorriso, il riso, il dubbio anche su noi stessi e sulla nostra lettura sono un po', diciamo, le reazioni primarie. Tant'è vero che quando spesso si sente dire di alcuni testi di ricerca o testi come quelli di Mario, come quelli di Michele Zaffarano, come quelli di Alessandro Proggi, ma sono testi che non si capiscono, ecco, io credo che il problema sia meno dalla parte dell'autore che dalla parte del lettore. In certi casi proprio la percezione dell'ironia o del gioco linguistico è talmente smaccata che appunto la mancanza di questa percezione forse denota un momento che dovrebbe essere di riflessione da parte del lettore. E a un certo punto addirittura il discorso diventa veramente di umorismo. Io vi ricordo alla fine della prima poesia, in realtà molti testi, ho difficoltà anche a chiamarle poesie, si concludono con un maiuscoletto che può indicare varie cose. In questo caso la prima poesia si conclude con questo doppio maiuscoletto: un altro tema e un altro tema sui campi. Lasciamo stare l'ultimo. Il penultimo dice: un altro tema, i cocomeri sopra i campi e altre storie di sepolture negate. Ora è ovvio che un po' si sorride di fronte, no, a questa cosa. Il cocomero non è che c'è una sepoltura negata, il cocomero nasce fuori. Quindi non è una sepoltura negata. Ed è uno scherzo, ovviamente, con tutta la cultura classica dell'insepolto che non può accedere all'Ade e tutto quello che altro vogliamo. Quindi Mario, in questa brevissima riga, ci dice: avrei potuto scrivervi anche un testo su questo, vi risparmio. No. Adesso leggiamo ancora. Io, per esempio, ti suggerirei, però non so se l'avevi nella tua carnet di letture. Vediamo un po'. Alla pagina 41. In quell'epoca? Ok. Aspetta che guardo. Che appunto un po' descrive quest'epoca forse? Vediamo. In quell'epoca critica in cui gli uni virano all'ironico e all'acido, gli uni virano all'insipido e al dolciastro, gli uni al grossolano, gli uni virano al serio e al faceto, gli uni alla loro corrosiva fascia sonora, compresa dal principio di quell'epoca critica in cui gli uni virano al faceto, gli uni al serioso e al corrotto o al serio, gli uni virano al raggio macabro, al più clorotico, al bell'amore, l'uno per uno vale l'altro, gli uni virano a setacciare il circostante, gli uni virano in incognito, virando a cortina orlata in nero, virando gli uni a sabotare, infine gli uni virano al livore del puntiglio e la capziosità precisa, gli uni alla parsimonia, gli uni che sono impudenti, gli uni virano all'accidentale e al mordace, gli uni virano alle delizie del caos e alla troce laterale, gli uni al grosso e al massiccio senza disfare, al mordace e al docufilmario, gli uni all'ambiguo e all'indigente di quest'epoca così critica, al confuso senza abbordare, la passionata faziosità senz'altro. Ecco, un testo come questo, secondo me, già da capo riscavalca il discorso che ho fatto e va ancora oltre questo discorso dove abbondano e spesseggiano gli uni ma non ci sono gli altri. E quindi c'è sempre questa prima parte del sillogismo che non conclude. Vai. Posso abbassare molto il livello? Ah, tantissimo, vai. Libro. Pagina 43, perché è lì. Tratta il problema delle righe. Disporre le righe in ordine alfabetico. Altri si occupa del problema delle linee. Disporre le linee in ordine alfabetico non è semplice, essendo le linee infinite. Nota, né principio né fine della linea, infinito numero delle linee. Altri si occupa del problema dei segmenti disposti in ordine alfabetico. Le righe, di cui le linee sono sinonimi e altro. Trovando difficoltà nel disporre in ordine alfabetico le linee, che sono infinite, grazie al rapporto di sinonimia, trattarle a guisa di righe in quanto righe e ordinarle alfabeticamente in quanto linee. È possibile disporre in ordine alfabetico pure le sottolineature, linee. Anche sottolineare le righe potendo poi ordinare alfabeticamente le linee secondo l'ordine alfabetico delle righe o, che è lo stesso, delle linee, righe. Sicuramente la sfida più gratificante è quella della disposizione in ordine, crescente, decrescente, altro, degli asterischi, 1, 2, 3, eccetera. È possibile disporre alfabeticamente i punti. I punti, in quanto unità minime indivisibili che qualora disposte in stretta successione procedono senz'altro a comporre una linea, occorre poterli ordinare alfabeticamente per via di riporto secondo l'ordine alfabetico delle linee che essi compongano o componevano. I cervi sottolineati corrono per i boschi assieme ai cervi non sottolineati, è vero. Ordina. Lo sguardo si sofferma sui cervi sottolineati piuttosto che su quelli non sottolineati, essendo i cervi sottolineati presumibilmente più degni di attenzione. I cervi non sottolineati corrono assieme ai cani sottolineati, inseguendo i cervi sottolineati e i cervi non sottolineati insieme per i boschi. Essi inseguono tuttavia preferibilmente i cervi sottolineati, essendo sottolineati e dunque anche per ragioni di affinità e linee, si creano aree di maggiore interesse. Per i boschi vi sono alberi sottolineati e alberi non sottolineati, rendendo i boschi in parte sottolineati e in parte non sottolineati, ove si corre in entrambi i boschi. Viene fatto porre più interesse alla parte del bosco sottolineata a scapito di quella non sottolineata o, venendo agli elementi singoli, agli alberi sottolineati, abeti, pini, a scapito di quelli non sottolineati, abeni, abeti, pini, aghi. Nelle fasce di luce che trafilano le fronde vi sono molti pulviscoli sospesi. Alcuni pulviscoli sono sottolineati, altri pulviscoli non sono sottolineati. Ci sono cose molto lunghe che... Il discorso della lince è bellissimo. Sono tutte e due lunghi, però c'è il discorso della lince che... Ma discorso della lince. È un incipit, un incipit. No, è lungo davvero. Discorso della lince. Io sono bella. Io sono molto bella. Solo il puma è bello quasi altrettanto. Il puma mi somiglia. Io sono più aggraziata del puma e il puma è meno aggraziato di me. Il puma è più massiccio di me e io sono meno massiccia del puma. Queste sono le somiglianze. E ora le differenze. Il puma è più massiccio di me, infatti io non sono il puma. Io sono più aggraziata del puma, infatti il puma non è me. Il resto dell'autunno l'ho trascorso così, cacciando i boschi dalle foreste, cacciando le foreste dai boschi. Quanti ritorni. Cacciando nei boschi, nelle foreste, foreste e boschi, da togliere il fiato. Lungamente cacciando cervi dalle foreste verso casa. Molti cervi erano fuggiti dalle foreste a favore dei boschi. Lungamente ho inseguito i cervi per ricacciarli nelle foreste a favore delle foreste. Sono davvero bella. Sono bella come un cervo, ma più bella. Il cervo è più bello di me, infatti, ma io sono più bella. Tale è la mia bellezza per i boschi e le foreste. Quante corse! Quando riposo e mi giro su di un fianco, il mondo si gira con me. Quando riposo e mi giro sull'altro fianco, il mondo si gira con me. Foreste scivolano nei boschi, boschi scivolano dalle foreste da quella parte. Boschi scivolano in altri boschi e foreste in altre foreste dall'altra parte, verso foreste e boschi. Bacche, ghiandi, noci, pigne rotolano da una parte, rotolano dall'altra. Tale è la mia bellezza. Raccogli una noce. La noce è talmente bella se la raccogli con me. Io sono bella. La noce che raccogli con me è bella. Ecco le somiglianze tra me e la noce. Se apri la noce che hai raccolto con me, ecco, escono alberi, ecco, nasce un bosco dentro il bosco. Il bosco nuovo è così bello. Il bosco nuovo è più bello di una foresta. È vecchio. Il bosco nuovo è più bello del bosco vecchio. È talmente bello che fa più bello il bosco vecchio. È una foresta vecchia bellissima. È più bello del bosco nuovo ora, talmente è bello il bosco nuovo. Anche gli alberi sono belli. È bello come una foresta, più bella ancora. Oh, il bosco tutt'attorno. Raccogli una ghianda assieme a me. Che ghianda bellissima, lascia che la raccolga io. Se apro la ghianda che io ho raccolto, ecco, escono alberi, balzano cervi, ecco, nasce una foresta popolata di cervi e balzi di cervi tra gli abeti e i boschi. Osserva la bellezza delle ghiandaie. I cervi sono belli. Sono belli i cervi nati dalla ghianda che io ho raccolto e le virate delle ghiandaie. Vi è dell'azzurro nelle ghiandaie dentro il bosco. Vi è dell'azzurro nel cielo sopra il bosco. Io sono talmente bella che anche la mia bellezza è bella. Sono talmente bella che i cervi nati dalla mia ghianda balzano non solo tra albero e albero, ma anche tra foresta e foresta e tra bosco e bosco, facilmente. Sono talmente belli della mia bellezza che balzano da foresta a bosco e da bosco a foresta facilmente. Ah, la bellezza di quei balzi, ah, la lunghezza di quei salti, anche l'ampiezza è bella, eccetera. Vi sono alberi nei boschi, sono belli come foreste, vi sono alberi nelle foreste, belli. Occorre cacciarli dai boschi, occorre riportarli nelle foreste. Guarda! La mia bellezza è magnifica nel guardare. Ecco, guardo i cervi ora balzare in cervi nuovi, più belli ancora, mai stati così belli. Si dipanano distanze, piani di bellezza, di bei boschi, di foreste belle, di boschi bellissimi abitati. Quando riposo e mi giro su un fianco e tutto rotola il mondo da quella parte. I miei sogni hanno chance di realizzazione altissime. Tale è la bellezza dei miei sogni. Sogno poco, perché sono bella. La luna è bellissima e mi illumina. Nella caccia, quando mi sveglio. Al risveglio la mia bellezza è tale che basterebbe per molte notti, per molte linci. Ecco che io sono molte linci, più ancora mille. La luna è molto bella e distingue i boschi dalle foreste. Noi distinguiamo le mille, ancora mille, le foreste dai boschi. Noi cacciamo i boschi dalle foreste, le foreste dai boschi, a favore delle foreste, a favore dei boschi e della bellezza. Più boschi nelle foreste, più foreste nei boschi. Ah, la caccia! Ah, la caccia! Quanti cervi balzano con noi! Da boschi a foreste, da foreste a boschi, da cervo nel bosco a cervo nella foresta. Io sono bella come un puma, solo più bella. La bellezza del puma è pari alla mia, ma la mia è più bella. Non vedi? Il puma dice, quanto vorrei essere la lince. Io dico, occupato. Questa è un'altra somiglianza tra me e il puma, infatti. Le foreste sono attraversate dalla mia bellezza e dalla luna. La luna mi assomiglia in questo. Le foreste sono attraversate dai boschi come dalla luce della luna e dalla mia bellezza. I boschi sono attraversati dalla luce della luna che piove dal cielo e sono attraversati dalla mia bellezza che si espande nella mia figura tra gli alberi aggraziata. Ecco la differenza tra me e la luna. Ve ne sono altre. Esempio, la mia bellezza è maggiore. Esempio, la sua bellezza è minore. Esempio, siamo entrambe belle. Quanta grazia vi è in me. I boschi attraversano le foreste e stanno. Le foreste attraversano i boschi e stanno. Vi sono alberi e radure. Ho trascorso il resto dell'autunno a cacciare i boschi dalle foreste e le foreste dai boschi. L'ho fatto con elegante bellezza e senza impoverimento di boschi e foreste e cervi, ghiandaie e cani. La mia bellezza è tale che ho riportato i boschi nelle foreste e le foreste nei boschi. Che corse, le ghiandaie, in questo ho impegnato la mia bellezza, con eleganza. Il puma è meno elegante di me, io sono più elegante del puma. Io sono più minuta del puma, ma la mia bellezza è maggiore. La bellezza del puma è simile alla mia, ma la mia somiglianza è più bella. Io sono bella. Ecco le differenze tra il puma e me. Ecco le differenze tra me e il puma, pur con qualche somiglianza, infatti. Io non sono il puma. Il puma non è me. Guarda quel puma, che bello. Fine del discorso del puma e della lince. Fino a dopo sorso. Sì, dai. Altrimenti insomma magari c'è buttato via pagina e poi tu vuoi dire qualcosa ancora? Ti faccio... aspetta se no per questa cosa dici? Se guarda attentamente certo. Sì, c'è certo. Se guardi attentamente il cielo e ne scorgi forme, se vi sono nuvole e scorgi una cima di nuvola gonfia dietro nuvole che è priva di colore, invece sporge gonfia dando forma alla luce avvenente da un sole andante a cadere invece non visto. Tale eccezione dell'oro non dura che poche forme, cambiate dal vento in una zona divenuta remota. Oppure vi sono sulla tenda che il vento sposta numerose figure animali e numerose morte in forma di mosche, numerose vive in forma di mosche che ancora vi sono ed esse vivono nell'oro, sono morte. Allegria. Leggo l'inizio di due. Questo è due. Vi sono poteri. Ragioniamone insieme da qui, di fronte alle montagne e dietro ai vetri. Vi sono poteri, essi sono poteri forti e poteri deboli. I poteri forti sono potenti e forti, i poteri deboli sono potenti e deboli. Essi sono i poteri. Esempio, i poteri forti possono sollevare i cervi da terra ed ecco i cervi galoppano, ecco sfiorano le cime degli alberi e degli abeti, oppure ecco i cervi galoppano sfiorando i cuscini muschiati del sottobosco disteso in velluti. I poteri forti possono schiacciare, ad esempio, le rondini contro il cielo come mosche contro un vetro. Che cosa è più trasparente del vetro? Che cosa più azzurra del cielo? I poteri. Non vi sono poteri forti, non vi sono poteri deboli, infatti. I poteri forti si dividono in vi sono, non vi sono, poi in poteri forti, poteri fortemente forti, poteri diversamente forti o diversamente deboli. Per converso, i poteri deboli sono deboli, non vi sono, debolmente deboli, estremamente deboli, diversamente deboli, moderatamente forti, forti. I poteri deboli, in diversi gradi di potenza, possono far ondulare le tendine nella brezza, trasformare i conigli in capre, ma non le capre in conigli, sicché vi è sovrappiù di capre, nostalgia di conigli e loro mancanza. Ma no, diciamo qua, dai. No, perché è veramente, veramente lungo questo. Però diventava interessante da qui. Diventava interessante, i conigli capra. Va bene, ameriamo le giornate di sole, odoriamo i bei fiori che guardiamo. I conigli capra vivono in gruppi di 5. Parliamone insieme da qui, da dove li sogniamo ogni notte, tra le montagne e i legni della stanza. Vi è struttura presso i conigli capra e vi è ordine presso di loro. Il coniglio capra alfa è di statura più alta e il suo colore è un azzurro che pare morbido. Sta più avanti rispetto agli altri, bene, due alla sua destra, due alla sua sinistra, conigli capra altri. Tutti hanno postura eretta, andatura bipede, volto largo e lunghe orecchie in su. Quasi nulla mantengono della capra, conigli capra, se non corna piccole ricurve, due. I conigli capra hanno le capriole di trasformazione. I poteri forti abborrono i conigli capra, provando spesso nostalgia per i conigli. I poteri deboli sono potenti, ma sono deboli, da qui il nome. I conigli capra possono trasformarsi in qualunque cosa. I poteri forti possono far resuscitare i morti anche senza l'assenso di costoro. Ecco i morti che prendono possesso del mondo e non ne sono contenti. I poteri deboli possono far resuscitare i morti. I poteri forti possono sollevare i morti in cielo ed ecco le nuvole bianche, le nuvole grigie, le nuvole cupe e poi piove. Essi morti si raggruppano in nuvole e piove. I poteri forti raramente sono meno forti dei poteri deboli, che spesso hanno nostalgia dei conigli. I conigli capra sono per tutti di consolazione, con la loro capacità di trasformarsi, esempio, in divertenti musicisti e suonare vari strumenti nelle sembianze umane di divertenti musicisti. I morti, esempio, non suonano divertente musica o altro, lasciano a noi. I conigli capra non hanno molto della capra, se non che di altero nell'atteggiamento del volto, ove il mento è tenuto piuttosto sollevato, anche se lo sguardo resta nostalgico e ombrato come di dubbio. I poteri forti possono far crescere gli alberi fino al cielo e dare molta piacevole ombra al mondo. Vi è il mondo, vi sono i poteri. I poteri forti hanno molta potenza e molta forza, per questo possono. I poteri deboli hanno molta debolezza e molta potenza, sì che possono anche loro. Esempio, guardate quei conigli capra che si trasformano compiendo le loro capriole di trasformazione belle. Sono efficaci. Ecco una zebra, ecco una volpe, ecco un cervo, ecco uno scricciolo capra coniglio, ecco tutto è bianco nero, ecco rosso, ecco bruno, ecco tutto freme piumato. È noto che il coniglio capra trasformandosi vede ogni volta diverso anche. Diverso facendosi, cosa vede, come, ecco, chi è che vede, diverso. Secondo che sia soggetto dell'atto di vedere, ecco appare questo e quello. Sei dotato di poteri forti? L'ho visto con i miei occhi anche, coniglio capra. Infatti anche coloro dotati di poteri deboli possono vedere attraverso gli occhi dei conigli capra quando questi compiono le loro capriole di trasformazione. Ed è un bel caleidoscopio vedere allora. I conigli capra non sono così diffusi perché vi è nostalgia di conigli e tale nostalgia vi è comune preferenza a prevenirla piuttosto che a curarla, essendo di molto difficile cura e difficile prevenzione. Potremmo definire questo brano 2 un poemetto? Secondo me potrebbe essere un po', visto che non si riesce a diffondere questo tipo di lettura, potrebbe essere, diciamo, mettendoci qualche nome, può diventare una teoria complottista, secondo me, e poi distribuirla. Secondo me si diffonderebbe facilmente, perché le teorie complottiste aggiungo in nota che i complotti esistono. La terra non è piatta, ok, ma altre cose magari succedono, no? Si può dire, ma non lo so, no, sono sempre esistiti complotti, storie piene, certo, è vero. Possiamo farne un estratto e diffonderlo in rete. per la attenzione gioia. Attenzione capre, attenzione conigli. Ok, beh, come vedete appunto tutto quello che un po' si è detto all'inizio sul primo testo un po' ritorna qui. E, uno dei suggerimenti che si potrebbero dare nella lettura mentale, con gli occhi insomma, di questi testi, a chi ha il libro in mano, è provare a sentirlo con la voce, le intonazioni, le sottolineature di Corrado Costa, per esempio. E nota, oppure di Carlo Bordini, e così chi ha appunto modo, insomma, poi si trovano in rete molte letture di entrambi, per vedere come c'è questa affinità, aria di famiglia, idea di una scrittura che tutto sommato non è così, riesce a essere quanto più possibile vicina al reale e alle diciamo così, e ai glitch e ai disturbi che il reale dà al linguaggio, quanto più la voce sembra appunto enunciare queste frasi come se fossero la cosa più naturale del mondo, e proprio così dimostrando che la cosa più naturale del mondo è proprio l'inceppamento, la contraddizione, il fatto che appunto la lince sia più bella, però è anche, no aspetta, che il puma è più bello, adesso mi sento, no, c'è un punto preciso che, in cui il paragone, l'istituto del paragone viene in qualche maniera messo in crisi, l'avevo anche segnato. Vabbè, lo troverò. È pagina 47. No, infatti sta andando più indietro. E praticamente a un certo punto, vediamo se lo ritrovo. Io sono più minuta del puma, ma la mia bellezza è maggiore. La bellezza del puma è simile alla mia, ma la mia somiglianza è più bella. Cioè, una somiglianza, sì, somiglianza a che esattamente? Il somigliare, che è più bella, però. Che è difficile. Oppure io sono bella come un puma. Solo più bella. Questa è autobiografica, non quella... È la bellezza di Mario, è evidente. Come Lynch. È sessista. O come Puma. Ho fatto dire alla Lynch che è più bella del Puma, come donna, perché la Lynch è femmina. Eh sì, e quindi... Puma è maschio. C'è anche, e l'avete ultra notato, ascoltato, questa fortissima presenza di pronomi che non si usano, esso, essa, che sono lo specifico a volte dei... appunto magari di qualche sussidiario un po' âgé, oppure di qualche appunto enciclopedia che effettivamente si trova più sulle bancarelle ormai che negli scaffali, oppure il vi è al posto del c'è, vi è, che è chiaramente insomma, no, quella patina di antico che nello stesso tempo restituisce, dovrebbe far insomma, no, sorgere, come vedo sulle facce di tutti, un sorriso. E questo è uno degli elementi che ritroverete anche in altri libri di Mario, oltre che ovviamente abbondantemente in questo. Adesso accenno, ma soltanto accenno a un elemento che un po' anche nella bandella è detto, cioè al fatto che a volte questa stessa ossessione metamorfica che sta nel fluire dei paragoni, delle vicende stesse di descrizione che Mario mette in campo, questa ossessione moltiplicativa delle immagini, questa continua intersezione tra le figure degli animali o delle erbe o degli oggetti, e se noi ci pensiamo, non so se avete... credo tutti, esperienza delle trasformazioni bizzarre da un oggetto all'altro, oppure all'interno dello stesso oggetto con elementi che si staccano e poi si riprendono e poi vengono conglobati in un'unica forma e poi si scindono ancora, nella creazione di immagini che fa l'intelligenza artificiale. E spesso, adesso c'era un esempio un po' particolare che io volevo prendere da pagina 37, se è questo, che citava, che avevo preso come esatto, cioè per esempio una conclusione qui di un testo che dice appunto: il cane è una preda ambita per i corvi, dopo un lungo addestramento in questa lotta con l'opaco, che il cervo secerne come un solido carapace, se ne libera con gesti di corsa il dorso della strada di casa nella polvere posata sull'aria intorno a questo e l'abbaiare dei cani. Quindi c'è questo cane che inizia, cane che conclude, questo carapace che improvvisamente gemma così dalla, viene secreto dal cervo, e altri esempi ci sono, che adesso, per esempio pagina 34, quindi poco prima, il testo breve, un mondo che dice: un cervo presenta un eccesso di denti che gli sporgono dai fianchi e dal dorso, che ce lo fanno immaginare già mangiato dall'interno, morto tuttavia chi lo ha mangiato nei pressi di un burrone esterno. Cioè, vedete come il linguaggio ricostruisce questa dialettica esterno-interno, come in qualche maniera fa, in maniera totalmente imprevedibile, le volte che appunto ci troviamo a visualizzarla su Facebook o su qualsiasi altro strumento o aggeggio che noi quotidianamente incontriamo, come fa l'intelligenza artificiale quando manovra in maniera assolutamente imprevedibile le immagini. E con questo io appunto dichiaro Mario Porticelli uno dei padri dell'intelligenza artificiale applicata alla letteratura, però. Senza far uso però di AI nella scrittura, perché è tutto merito. Cioè, per esempio, nel tuo caso non c'è googlism e prelievo dalla rete. No, alcune cose però tipo in quest'epoca in cui sono tutti prelievi, virano al faceto, eccetera, eccetera. Altre cose no. No, e poi comunque intelligenza artificiale no, sono abbastanza. Ok. È intelligenza naturale questa. Sì. Vuoi leggere un altro frammento, un altro pezzo, un'altra cosa? No, magari l'ultima proprio. Anche se poi bisogna leggere prima. E poi faccio solo un'osservazione finale e poi lascio al folto pubblico di tu commentare. Qualche... aspetta, c'era pagina. Ah no, ma quello l'hai detto però. È un pezzo della Lince. Quindi vabbè, questo l'ho letto. Cioè, no, questo qui. 38. Assolutamente sì. Pagina 38. Cantiamo insieme e diciamo. No, da seduti. Da seduti? No, okay. Sì, da seduti. Quello è quando c'è l'eucaristia. Questo di femori? Sì. Ti piacciono i femori? Mi piace l'immagine, dai. Immagine. Il prossimo libro che pubblichi sarà un elenco del telefono e lo facciamo commentare a Marco, perché è cosa fantastico. Cosa meravigliosa ne verrà. Dai. Il libro non è così bello come dice lui. Di più? No. Va bene. Ho preso un femore. Da un femore ne ho ottenuti due femori. Da due femori ne ho mantenuti due. Da quattro femori ne ho sottratto uno, che ne ho mantenuto a parte tre. Li ho caricati sulla schiena di un cavallo. La terra è tenuta al cielo da famosi femori sottilissimi e sottili, fitti. Appena diciamo una parola tremano, ne otteniamo il terremoto e ne otteniamo la corsa del cavallo, prendendo un femore che ha forma di bianco, occasionali. Grazie. È la vera struttura del mondo, lo sanno tutti, i femori. E poi quando trema mi meraviglio che non sei mai accorto di questo. Ma io per questo pregio questo libro. Ho imparato tanto. Altro che la terra bianca. Questi femori. Ci tengo a dire una cosa che non è stata detta, ma magari è stata forse intuita. Il motivo per cui Marco Giovinale insiste tanto sul testo di Bandella è perché l'ha scritto lui. Io non sapevo se si poteva dire o no, perché ho iniziato, leggiamo cosa disse la Bandella. Sembrava che non l'avesse mai vista, capito, questa Bandella. Era scritta bene, però riconosciuta. Allora non è mia. Leggo l'ultima, così chiudiamo, proprio l'ultima del libro. Si intitola libro anche questa. Da qui dove sei, della strada di casa lontano, prendi l'estremità qui della strada di casa lontano, solleva l'estremità della strada di casa, fai roteare la strada di casa con la casa lontano, fai roteare più veloce su via la strada di casa lontano e più veloce ancora che puoi, e a ruotare tantissimo e a ronzare tonante della strada di casa, lascia la presa dalla strada di casa e lancia la casa via e la strada, a ciò che il cervo non ritrovi la strada di casa. Un altro mondo. Casa. Grazie. Allora, come spesso si dice, se ci sono domande... Ma anche risposte. Anche risposte. Antonio. Mi è venuto in mente subito, alla prima lettura, il Codex Serafinianus. Certo. Anche se l'operazione sembra un po' a rovescio, perché sì, lì c'è un mondo decostruito di cui si prende in giro la descrizione rigorosa con un linguaggio immaginato. Certo. Fatto in modo molto rigoroso, come le ricci, cioè. Invece qui c'è il nostro mondo, mi sembra, è decostruito attraverso il linguaggio. Quindi, diciamo, è un'associazione di idee, mentre l'intelligenza artificiale è un'associazione di idee, idee per affinità. Qui mi è venuto un po' alla rovescia. Non so se in qualche misura anche l'autore, insomma, sia attratto ispirazione a queste operazioni invece, insomma, non di scrittura asemica o scrittura di ricerca, ma niente di grafica anche sopraffina, insomma. Sì, sì, no, è un libro che ho molto apprezzato, il Codex, e anche la scrittura asemica in generale. Non so quanto, sicuramente non è una cosa volontaria, quindi non so quanto, però sì, è un mondo che mi affascina molto e che amo, sì. Questo lui in prima fila. No, se intanto dovresti, adesso a parte... Dovresti argomentare tutte le risposte, ma così non... Cioè, ah, non è che qua rispondere solo sì, no. Te ne sei accorto? Intervento per la domanda. Te ne sei accorto? No, adesso in maniera assolutamente seria volevo ringraziare Carlo per il libro, l'ottimo lavoro fatto. E non fatevi ingannare dalla copertina, il libro è meno bello della copertina, cioè il testo è meno bello della copertina. Quindi grazie Carlo, eccetera. Prego. possiamo anche cambiarci di posto e continuare. Allora ringraziamo di nuovo e ancora sottolineiamo il grazie a Alberto D'Amico allo studio Campo Boario e ringraziamo Mario di averci letto. Grazie a te Marco. I suoi testi. Fantastico. Un applauso a Mario Corticelli.